Job 24. Può sembrare strano visto il periodo, ma alcune banche assumono. Per esempio, ha in atto una campagna di recruiting Unicredit Group, presente in 22 paesi europei con 180.000 dipendenti. In Italia, Unicredit ricerca tra gli altri neolaureati e non solo in materie economiche. Cristina Nagnostopoulou, responsabile Executive Development per il gruppo Unicredit. Il maggiore interesse nostro è nel prendere persone flessibili, che siano profili che noi possiamo usare in varie funzioni dell'azienda e che possiamo anche proiettarli con una carriera internazionale. Quali neolaureati privilegiate in termini di facoltà? Di facoltà ovviamente le scienze economiche, anche politiche, di statistica, anche se ultimamente un po' più che negli anni passati consideriamo molto profili che vengono da università umanistiche. No, umanistiche, sì, esatto. Come mai? Perché ci interessa molto avere un'altissima qualità anche a tutte le funzioni umane della banca, che non sono solo quelli che hanno da fare strettamente con i numeri, ma sono anche tutte le altre funzioni che sì, hanno un'expertise tutte di loro tecniche, che sono la parte legale, sono la parte di psicologia o delle altre funzioni aziendali che non sono strettamente finanziarie, e per avere un pool di persone che possono crescere nell'area come sono il group identity, la comunicazione, la sostenibilità, che potranno anche far parte di diverse team dell'Unicredito che non siano strettamente collegate con la finanza. Noi la maggior parte delle volte facciamo un contratto di a tempo determinato, a neolaureati parliamo, per poi dipende dalle nostre politiche di assunzione, dal momento dell'azienda e da tutti gli accordi che abbiamo di poter confermare le persone o no. Noi non abbiamo picchi di lavoro la maggior parte, cioè noi investiamo sulle ricerche con l'obiettivo di poter tenere le persone. Ciò dipende ovviamente ogni momento, che questo è importante dirlo, dalla situazione che si trova la nostra azienda. E il periodo, lo sappiamo, è delicato. Comunque, per candidarsi, il sito di riferimento è www.unicreditgroup.eu. E anche Intesa San Paolo ricerca diplomati o laureati da inserire soprattutto nella rete commerciale. Il sito in questo caso è www.intesasanpaolo.com. È tutto. Per scriverci, job24 è radio24.it. Ci sentiamo domani. Un saluto da Roberta Pellegatta.